Vi sono situazioni nella vita di ogni giorno che quando le raccontiamo a chiunque, anche a noi stessi, appaiono singolarmente semplici, banali, questioni di un attimo e oggetto di un'attenzione in vero minima. Se ci si pensa su, invece, se ci si pensa su, queste stesse situazioni si rivelano come dannatamente complicate, occasione di calcoli e di contrattazioni implicite piuttosto elaborate e per lo più condotte in grazia di un programma ormai incorporato, che gira, no? Come dicono gli informatici, che gira per conto proprio sotto altri programmi che nel nostro cervello rappresentano i margini della nostra consapevolezza. Una di queste situazioni è sicuramente quella che si verifica allorquando, diciamo in quattro, no? Almeno in quattro si fanno le ordinazioni al ristorante. Tutti e quattro abbiamo avuto il menù davanti e abbiamo goduto del tempo per soppesarlo. Il cameriere è lì davanti con blocchetto e penna in mano e già il lancio è un problema, come l'apertura a poker. Se io dicessi, per esempio, vedo che oggi, ahimè, ci sono i bolliti misti e alla faccia dei trigliceridi non me li perderei. Ecco che se il mio dirimpettaio avesse invece scelto, ecco, se invece il mio dirimpettaio, mettiamolo lì, avesse scelto una sogliola al burro, lo metterei in difficoltà. Sicuramente intanto sul vino, perché prima o poi il vino andrà scelto e sarà poco carino scegliere due bottiglie, una di rosso per i bolliti e una di bianco per il pesce, per cui uno dei due dovrà cedere all'altro. E dire cose del tipo non ti preoccupare, io sono uno che con il pesce beve abitualmente vino rosso, o cose insulse e bugiarde per lo più del genere. O la questione degli antipasti, no? Facciamo un altro esempio, la questione degli antipasti. Come fa uno a ordinare gli antipasti dopo che tutti gli altri hanno deciso di passare direttamente ai primi? C'è chi lo fa, d'accordo, ma chi lo fa è uno che ha parecchio pelo sullo stomaco per sopportare la propria condizione di diverso sotto lo sguardo altrui, lo sguardo di gente che considera il ritardo con cui arriveranno i propri piatti come funzione diretta di uno che, solo soletto, sta mangiando davanti a tutti. L'ordinazione non è dunque un processo lineare e seriale, ma è l'esito di piccole mosse parallele, di sguardi furtivi di verifica sugli altri, di modesti aggiustamenti, a volte di frettolose ritirate. Prendiamo l'ultima cena a quattro a cui ho partecipato. Allora, in due hanno chiesto gli antipasti, una il secondo con un'insalata mista di contorno ed io, infine, solo il secondo. Con la richiesta successiva di anticipo dell'insalata mista, da portarsi all'unisono con gli antipasti, lo schema, per quanto irrimediabilmente zoppicante, sarebbe divenuto quasi accettabile. Ci sarebbe stato solamente l'imbarazzo per tre di mangiare nel digiuno di un quarto. E invece il disattento di turno, o la sociale, o il nemico della convivialità, fate un po' voi, ci si è messo di mezzo e, a ordinazioni in via di chiusura, si è ricordato dei primi, ordinandone uno per sé. E a quel punto lo schema era ingovernabile, la simmetria della cena come occasione sociale era fatalmente determinata. Ci sarebbe stato, come di fatto ci fu, un lungo periodo di imbarazzo vissuto da tre persone che, non mangiando, avrebbero guardato lui che mangiava. E non solo. Mentre può quasi apparire legittimo che qualcuno, io sottoscritto nel caso, salti un turno, diventa insopportabile che questo qualcuno di turni ne salti addirittura due. L'occasione sociale ha le sue regole, come per il parlare. È legittimo il silenzio solo entro certi limiti, poi quello stesso silenzio diventa dissenso, diventa offesa, malattia, roba da cui guardarsi o da combattere. In qualsiasi tavolata vigono regole non scritte che riguardano la ratificazione di chi vi partecipa e le modalità con cui vi deve partecipare. In termini sportivi si può dire che l'obiettivo di un'occasione sociale senza secondi fini è lo 0-0 fra i concorrenti, ma questo 0-0, non te lo regala nessuno. Con un minimo sforzo te lo devi guadagnare, fosse solo con la barzellettina finale. Ma se la selezione di un menù è un caso di contrattazione implicita estremamente delicato, a maggior ragione il difficile equilibrio fra il lecito e l'illecito sociale rischia, in rapporto alla domanda fatidica che contrassegna qualsiasi selezione di menù che si possa operare a questo mondo, cioè chi paga? Non tutte le interazioni sociogastronomiche sono governate preventivamente con chiarezza ed univocità. Paga lui, pago io, paghiamo noi, lei è a mio carico, si fa la romana, ovvero si fa la somma e si divide per il numero dei commensali. E al momento della selezione dal menù tutto ciò deve essere tenuto presente. Beh, ci sono i casi dubbi, è vero, ma lì mi sembra opportuno regolarsi come se il conto fosse equamente distribuito. Forse un buon 0-0 sociale è garantito dalla costante presunzione di un conto equamente distribuito. Voglio dire che se so che paga l'oliva perché così è stato deciso prima, ecco, non è granché simpatico che al posto del grignolino io ordini un Chateau Latour del 64 e al posto della sardina in scatola ordini una ragosta fresca e pimpante, prenotando già che ci sono una bottiglia di Sauternes per il dolce. E anche se so che alla fine si divide in parti uguali, beh, parebbe opportuna la morigeratezza o almeno un attento calcolo sulle ordinazioni, tale per cui quanto mangiato sul totale sia occhio e croce adeguato a quanto pagato. Mi ricordo un episodio di molti anni fa, quando frequentavo in piena amicizia un famoso e ricco filosofo. Si usciva spesso a cena e pagava lui. Si discuteva, ci si accalorava, a volte anche si litigava, ma grosso modo eravamo dalla stessa parte della barricata. La compagnia, diciamo così, usuale era di 5 persone, con quel tanto di comune che ci teneva insieme. È andata avanti fino ad una certa sera. Una certa sera in cui, in un ristorante nel quale non eravamo mai stati, si arrivò al momento del caffè. Beh, mentre in quattro ordinammo il caffè consueto, il caffè di tutti i mortali, diciamo il quinto, menù alla mano, volle provare un caffè speciale. Tanto speciale che, come tutti potemmo constatare sul menù, costava ben 12 volte un caffè normale. L'amico che l'aveva ordinato sorrideva beato, e tutti i presenti credo che in quel sorriso leggessero chiaramente la frase «Tanto lo paga lui», rivolta all'amico ricco e filosofo, il quale, se ricco lo era davvero, non la prese affatto con filosofia, se è vero che una volta tornati a casa sua, messo mano alle sue bottiglie e intavolata una discussione sulla logica hegeliana, acuì i punti di dissenso nei confronti di tutti i presenti fino al punto di andare su tutte le furie di cacciarci di casa definitivamente a male parole per sempre, ma con la signorile capacità di attribuire la rottura ad una diversa interpretazione della logica hegeliana e di non fare alcun cenno al caffè.